Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Speciale di Focus Economia oggi con le borse chiuse alla vigilia di Natale. Da Sebastiano Barisoni un augurio di buon Natale a tutti voi in ascolto. Puntata particolare perché oggi, invece che raccontare la cronaca, ahimè, negli ultimi mesi quanto mai negativa, dei mercati, dei dati congiunturali, cercheremo di affrontare il tema di come si stanno muovendo due settori da un lato sono settori importantissimi per il nostro paese, mi riferisco al turismo che da solo contribuisce al 10% del nostro PIL e al settore vitivinicolo che è la prima voce nelle esportazioni alimentari italiane. Ma anche perché sotto Natale parlare di turismo, di viaggi e di vino ci sembrava quanto mai importante anche da un punto di vista economico, visto che noi nel turismo abbiamo perso posizione negli ultimi anni, siamo quinti al mondo come destinazione, nel 1970 eravamo primi, mentre al contrario nel vino quest'anno abbiamo risuperato la Francia come produzione e continua il testa a testa nel quanto a primo posto negli Stati Uniti come export di vino. Due settori appunto con diversissimi aspetti ma in cui spesso viene identificato il nostro paese. E allora partiamo dal turismo, in questo caso però non parliamo solo di turismo come flusso di stranieri verso l'Italia, ma anche come mete e luoghi in cui si dirigeranno gli italiani durante le vacanze natalizie e fino all'Epifania. Saluto in primo luogo e ringrazio il presidente di Federturismo Confindustria, Daniel John Winteller, buonasera. Buonasera a lei. E grazie anche a Valeria Minghetti, che è ricercatrice presso il CISET, che è uno degli organismi che studia e monitora da anni ormai l'andamento del turismo nel nostro paese. Buonasera anche lei, dottoressa. Grazie, buonasera. Allora, dicevamo il turismo, il 10% del PIL, circa 155 miliardi di euro, 300.000 imprese, 2 milioni e mezzo di addetti. Vorrei una prima domanda, poi andiamo anche all'analisi più di tendenze, di struttura. Però sulla contingenza, da più parti si è detto: ma dov'è la crisi? I negozi erano pieni, gli shopping center pure, la fila nei grandi magazzini, e anche, voglio dire, è difficile trovare un posto libero per il ponte natalizio o per quello di Capodanno. Allora, tra l'altro proprio ieri è arrivata la notizia che Cortina si presenta con un tradizionale tutto esaurito negli alberghi, o quasi tutto esaurito negli alberghi. Sappiamo che poi a Cortina magari fa riferimento un pubblico, un target più alto, che la crisi non colpisce tutti in maniera uguale, però al presidente di Federturismo vorrei chiedere in primo luogo che dati avete voi alla mano. Insomma, questa crisi c'è, non c'è, oppure c'è ma porta a un cambiamento, diciamo, di modi di consumo turistico, chiamiamolo così, di fruizione, più che a un taglio drastico? Ma guardi, la crisi sicuramente c'è e si comincia a sentire, penso che continueremo a sentire gli effetti anche nei mesi che verranno. Detto ciò, il turismo è uno dei settori più resistenti, diciamo, alla crisi, anche perché, parlando della contingenza come lei suggeriva, è vero che oggi si possono notare magari gli aerei pieni per le diverse destinazioni, ma è anche vero che noi siamo un'industria che riesce a modulare abbastanza l'offerta in rapporto a quella che è la domanda, quindi non abbiamo degli stock fissi su molte parti del settore, ma ovviamente sugli alberghi invece è un altro discorso, però riusciamo a modulare abbastanza bene l'offerta e quindi a rispondere in parte a quelli che sono dei cambiamenti della domanda. Comunque, detto ciò, ribadisco, la crisi c'è, la cominciamo a sentire, quello che mi preme sottolineare è appunto questa capacità di adattamento del settore che fa sì che sia un settore non trascurabile, non solo dal punto di vista del contributo al PIL e dal contributo all'occupazione, ma anche alle sue capacità di sviluppo e di crescita anche in momenti di relativa difficoltà. Gliel'ho chiesto anche perché ha fatto un po' discutere una sua intervista a Corriere della Sera di qualche giorno fa, in cui titolo forse un po' forzato diceva, le attribuiva una frase: crisi, ma quale crisi? Gli italiani sono in volo per le Maldive, per i Caraibi, dove i voli sono oggettivamente pieni. vorrei capire se più che cambiare il modo della fruizione turistica non sia questo un altro segnale di una divaricazione del paese, cioè tra chi ha tenuto botte in questi anni come potere d'acquisto, magari l'ha anche aumentato, mi riferisco alla fotografia scattata dalla Banca d'Italia, i lavoratori autonomi, e chi invece il potere d'acquisto ha avuto molta difficoltà a tenerlo invariato, anzi spesso ha perso potere d'acquisto, il lavoro dipendente in senso lato. Ma guardi, sicuramente questa stratificazione è rilevante dal punto di vista dei consumi, però come dicevo anche nelle interviste, credo che il titolo dell'articolo fosse volutamente un po' provocatorio per attirare, diciamo, una certa attenzione, ma nell'articolo appunto dicevo che quello che caratterizza il consumo della vacanza, del viaggio, è un po' quella che definiamo un po' la rivoluzione dei consumi, vale a dire si privilegia, e non da oggi, sempre di più quello che è il perseguimento dei propri bisogni in termini di realizzazione dei propri desideri, quindi dal punto di vista sia culturale che gastronomico e sportivo, molto tematizzato, quindi vi è uno scambio fra quella che è la ricerca dell'effimero e semplicemente del break a tutti i costi molto generalista, e in cambio troviamo una crescita relativa in settori o segmenti molto più tematizzati. È questo che sostanzialmente fa sì che da noi l'impatto della crisi sia anche da un lato meno forte, perché come dicevo l'offerta è capace di adattarsi. Dall'altro è anche vero che la domanda non crolla, probabilmente oggi la gente si ferma, non compra più beni durevoli magari che deve sostituire, tipo auto o beni di quella natura, però la vacanza, che è un prodotto tipicamente non da stock e che corrisponde anche in parte a una certa realizzazione personale, magari viene modulata, magari viene vissuta con una spesa leggermente inferiore, ma credo che in linea di massima nel corso di un anno, tra l'altro questo è un dato che è stato confermato anche dal Censis, più del quasi 60% degli italiani comunque dichiara di considerare fra le cose principali alle quali non vuole rinunciare la fruizione comunque di una vacanza nel corso di un anno, di almeno una settimana. Quindi diciamo la fotografia è quella, l'unica cosa è che la vacanza è molto più specifica, non è banale, non è effimera, ma proprio per questa limitatezza forse di risorse e di tempo, la gente vuole essere sicura di quello che compra in termini di affidabilità e di soddisfacimento dei propri bisogni. Allora, che cosa, ho capito il suo ragionamento per cui cambiano anche i modelli. Valeria Minghetti, voi come CISET avete fatto un'indagine appunto, assieme anche a Federturismo, insomma, sentendo gli operatori del sistema, quindi chi lavora nel turismo, chiedendogli delle proiezioni sul periodo novembre 2008-aprile 2009. Prima di tutto vorrei un suo commento su questo modo in cui cambia il turismo, magari si riduce la vacanza, si usano dei periodi più particolari, c'è chi ha detto addirittura che il ponte di Sant'Ambrogio sia stato molto utilizzato perché costava meno rispetto a quelli natalizi e quelli diciamo di Capodanno, insomma è una vacanza più low cost, più ridotta, ma resta un bene quasi primario andare in vacanza? Ma io direi di sì, infatti concordo con quello che diceva anche il presidente Winteler, secondo me sta cambiando appunto il modello, nel senso che aumenta lo spending divide, no? Quindi crescono i consumatori diciamo di fascia attualmente medio-bassa, calano tendenzialmente quelli di fascia media mentre tiene la fascia alta. Da quello che noi possiamo vedere, secondo noi i turisti di fascia alta continueranno a viaggiare, probabilmente non modificheranno la loro frequenza di viaggio nella tipologia di destinazioni, però secondo noi chiederanno in rapporto forse più qualità in relazione al prezzo, quindi si continua a spendere ma è una spesa tendenzialmente magari più oculata. Nel caso dei turisti di fascia media e fascia medio-bassa sicuramente ci sarà chi taglierà le vacanze, ma secondo noi appunto cambia il modello, cioè non si rinuncia alla vacanza, la vacanza ormai è un bene primario, si cercano nuove formule, quindi si accorcia il soggiorno, si cercano delle formule di viaggio e di alloggio che siano più convenienti, quindi questa secondo noi è la tendenza. Quindi si va in vacanza meno prolungata, magari sfruttando, ho capito bene, alcune offerte, ma non si rinuncia alla vacanza. Tendenzialmente secondo noi no, è vero che noi stiamo analizzando adesso anche il periodo invernale, nel senso che generalmente il periodo in cui la maggior parte delle persone vanno in vacanza è il periodo estivo, però diciamo che secondo noi la tendenza generale è questa, magari appunto si fanno più break più corti, ma si tende a non rinunciare, sta cominciando a diventare diciamo un bene effettivamente primario rispetto magari ad altri, c'è bisogno di leggerezza fra virgolette, soprattutto dopo un anno come questo. Non lo dica noi, abbiamo brevettato di tutto, dal gufo al gallo, pur di così rendere più digeribili, meno pesanti la sfilza e l'infilata di notizie negative che ci stanno accompagnando da inizio anno, perché prima c'era il petrolio e poi la crisi dei mercati. Comunque, restiamo sul turismo. Che cosa emerge dalla vostra indagine con gli operatori? In primo luogo, gli arrivi degli stranieri come dovrebbero andare tra novembre 2008 e aprile 2009? Allora, secondo appunto l'indagine che noi abbiamo svolto su un campione di 500 operatori italiani, appunto nel semestre novembre 2008-aprile 2009 gli arrivi di turisti stranieri dovrebbero diminuire complessivamente del meno 2,5%, mentre le presenze del meno 1,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda invece il turismo degli italiani in Italia, gli arrivi dovrebbero registrare una flessione tendenziale intorno al meno 2,8%, mentre le presenze del meno 2,2% sostanzialmente rispetto all'inverno 2007-2008. Quindi un calo comunque meno 2,5% sugli arrivi, meno 1,8% sulle presenze. Dovuto a cosa secondo voi, o secondo quello che dicono gli operatori? Al fatto che l'Italia sia meno appetibile o che la crisi abbia colpito anche e soprattutto Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna e Spagna? Ma diciamo che rispetto alle altre edizioni dell'indagine che noi facciamo ormai da 15 anni, diciamo che sono le preoccupazioni per gli effetti della crisi finanziaria internazionale e la temuta recessione economica che tendono a monopolizzare le opinioni degli operatori. E diciamo sia di quelli pessimisti, quindi che si aspettano un calo, sia di quelli diciamo pochi ma ottimisti che dicono sì, però comunque la gente preferirà rimanere vicino a casa e comunque risparmiare, quindi questo è il problema. Su questa preoccupazione si innesta poi il discorso dell'andamento dei prezzi, sulla base del quale diciamo secondo alcuni operatori si gioca la capacità dell'Italia di competere con i principali concorrenti esteri, quindi sia sul fronte del turismo internazionale che di quello domestico. Passiamo agli italiani, che già è introdotto come tema dall'intervento anche del Presidente di Federturismo, ma insomma che previsioni fanno gli operatori che voi avete sentito? Dunque, sul turismo degli italiani in Italia abbiamo già detto la variazione. Per quanto riguarda gli italiani all'estero, ci sarà una sostanziale tenuta della propensione. Per quanto riguarda le mete, diciamo che secondo gli operatori dovrebbero essere più frequentate dai turisti italiani che appunto sceglieranno l'estero in questo periodo, c'è la zona dell'Africa mediterranea, quindi l'Egitto, la Tunisia e il Marocco, poi c'è il Sud Europa, quindi la Spagna, la Francia, la zona dell'Est Europa e poi via via il Centro e Sud America con i Caraibi, l'Europa centrale e il Nord America. Le altre aree sono in tendenziale leggera contrazione. Adesso chiederò anche al Presidente di Federturismo perché i suoi dati, invece i dati degli associati di Federturismo, siano più negativi. Ma sulle mete, adesso io vorrei capire una cosa, senza voler fare populismo, ma il fatto che le mete restino anche Mar Rosso, Est Europa, cioè a me è sembrato di vedere una leggera contrazione nella distanza. Voi segnalavate un calo leggero di Maldive, Sri Lanka, Oceania, vabbè, Medio Oriente può avere motivi anche di carattere geopolitico, e un ritorno alle mete più vicine, Spagna, Francia, Est Europa, con una propensione anche per il Centro Sud America. Ho capito bene, Minghetti? Sì, tendenzialmente sono le aree più vicine sostanzialmente. Tra le mete diciamo di medio e lungo raggio, la prima è citato il Centro e Sud America, quindi che la zona caraibica. Ma l'effetto valutario c'è, perché abbiamo una sterlina inglese che ormai è alla parità con l'euro, un dollaro che è sceso di nuovo a livello di 1,40, questo è un ragionamento che ha una qualche implicazione poi nella scelta? Ma Sicuramente penso di sì, nel senso che comunque il rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro porta a una maggiore convenienza di queste destinazioni, quindi tutte le destinazioni dell'area dell'area del dollaro. Evidentemente qui c'è anche un discorso di durata della vacanza, quindi c'è un discorso di costo e c'è un discorso di durata, quindi la meta viene scelta in funzione di questi due parametri. Allora, Presidente Winterler, voi avete dei dati un po' diversi, se ho ben capito, meno 5% gli arrivi degli stranieri, meno 6% le presenze, meno 3% gli italiani quanto arrivi e meno 4% le notti. Sono quasi, anzi sono doppi rispetto a quelli che ha rilevato CISET con gli operatori italiani del turismo intervistati. Sì, noi abbiamo una visione, i campioni non sono coincidenti, quindi la spiegazione risiede sostanzialmente in questo. Noi abbiamo una visione che, ripeto, è un po' più drastica rispetto a quella fornita al CISET, soprattutto per quanto riguarda la parte sull'Italia, quindi mentre sull'estero abbiamo una tendenziale uguaglianza di visione. Crediamo che i dati anche citati prima dal CISET, con cui peraltro noi collaboriamo in modo molto positivo da diverso tempo, fotografino anche un po' quello che è un problema, cioè verso l'estero c'è un tendenziale mantenimento della propensione dagli italiani, mentre risultano in calo gli indicatori degli stranieri e degli italiani verso l'Italia. E questo è un dato che ci dovrebbe far riflettere come industria, ma anche e soprattutto come paese, perché come dicevo anche nell'intervista che lei precedentemente ricordava, stiamo perdendo delle straordinarie occasioni per valorizzare il nostro paese e tessuto economico stesso, appunto sfruttando quello che è un valore incredibile che il nostro paese può fornire in termini di ospitalità e di attrattività. E qui veniamo all'ultimo aspetto, lo dico senza nessuna polemica, però ne abbiamo parlato negli anni scorsi anche con i suoi predecessori. Il momento della crisi, continuiamo a dirlo perché ci crediamo, è sicuramente un momento difficile, ma è anche un momento in cui le persone, i sistemi si possono rigenerare, ridefinire e quindi poi possono uscirne quando sopravvivono rafforzati, cioè un momento in cui si possono scatenare anche momenti e ragionamenti nuovi, possono emergere migliori, si rompono i paradigmi, insomma non c'è solo del negativo in una crisi, c'è anche del, tra virgolette, rivoluzionario. Ecco, visto che anche nel vostro settore la crisi morderà, poi vedremo quanto, non sarebbe il caso poi di intervenire con riforme vere? Cioè, se l'Italia è scesa dal primo al quinto posto, sarà per colpa del sistema infrastrutturale, ma sarà anche perché forse i tour operator si sono un po' seduti, gli albergatori hanno aumentato i prezzi senza sempre offrire il servizio, e poi c'è questa follia per cui non esiste neanche un criterio omogeneo nel giudicare la qualità degli alberghi, quindi le 3 stelle, le 4 stelle cambiano come se fossimo in diversi emisferi a seconda della regione in cui ci troviamo in questo paese. Non sarebbe il momento anche per lanciare un grande progetto di riforma del turismo in Italia? Ma guarda, condivido appieno quello che lei sta dicendo. Intanto trovo corretto quello che lei dice, cioè intanto è chiaro che le colpe non è che risiedono tutte da una parte, quindi dal punto di vista degli imprenditori ci assumiamo diverse responsabilità in materia di innovazione, in materia di adeguamento degli standard e delle offerte. Io credo che molti gruppi, peraltro va anche detto, stanno seriamente innovando, se pensiamo a quelle che sono delle offerte web, se pensiamo a quelle che sono le offerte di weekends, tematizzazioni, nuove destinazioni, modalità diverse di offrire la vacanza. Credo che comunque il panorama non sia totalmente negativo. È chiaro che gli investimenti dal punto di vista degli operatori turistici, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, perché per quanto riguarda l'estero credo che siamo assolutamente allineati a quelle che sono le offerte degli altri paesi, quindi se partiamo dall'Italia verso l'estero. Il vero problema è quando guardiamo all'Italia, ed è chiaro che qui c'è un discorso di collaborazione, perché il nostro settore, a differenza di altri, non è che ha bisogno del pubblico, ci convive col pubblico, perché viviamo sul territorio e con le infrastrutture. Allora, e qui è chiaro che diventa un discorso reciproco di investimenti, dove gli operatori sono ben disposti a farle, anche perché devono mantenere una certa redditività e garantirla anche in futuro, però si trovano, non diciamo penalizzati, ma sicuramente non aiutati in alcun modo da quello che è un discorso più organico dal punto di vista delle istituzioni. Io parlo sia locali che centrali. Lei diceva la classificazione alberghiera, noi siamo campioni del mondo nel proporne di nuove e non avere mai delle entità o degli enti che comunque le controllino, cioè quello che è importante è il controllo in itinere. Poi la classificazione credo non sia un grande dilemma dal punto di vista di che cosa deve essere previsto nel 3 stelle, 4 stelle, il problema è che poi non vi sono controlli e questo porta poi a una specie di concorrenza sleale fra chi li rispetta e chi non li rispetta. Se poi in questi tempi, come lei ha sicuramente ricordato in altre occasioni, vi sono importanti discorsi riguardanti gli investimenti sulle infrastrutture, pensiamo alle compagnie aeree, pensiamo alle ferrovie, pensiamo alle autostrade, ecco, è perlomeno singolare vedere come tutti questi avvengano in assenza di qualunque collegamento col turismo. E allora qui ci vuole una politica più integrata che sarebbe di reciproco beneficio sia per il turismo che per le infrastrutture, perché non so chi è che oggi possa efficacemente pianificare delle rotte aeree, delle tratte autostradali senza tenere conto di quello che è comunque un flusso di quasi 100 milioni di arrivi in un anno in Italia fra italiani e stranieri. E quindi mi sembra paradossale questo isolamento del settore turistico. Quindi è vero e non abbiamo nessuna difficoltà e siamo pronti a qualunque confronto e a fare anche investimenti, e li facciamo anche giustamente di tasca nostra perché così si conviene degli imprenditori e delle aziende, però è anche vero che vi è una certa, diciamo, perlomeno miopia da parte delle istituzioni veramente a tutti i livelli nel non valorizzare una risorsa ma nel spezzettarla e viverla un po' come una specie di attività sociale che deve essere gestita così con delle logiche più politiche che imprenditoriali e produttive. Io mi auguro anche, come vi augurate voi, che poi i vostri associati, comunque gli associati del mondo del turismo, comunque siano le categorie, non utilizzino queste vacanze come con quell'atteggiamento un po' da selvaggina da passo, no? Insomma, visto che ci sei, ti bastono, poi vediamo se torni l'anno dopo, perché sarebbe il metodo migliore, il metodo peggiore da dare. Le chiedo se in una battuta anche lei, come fanno per esempio gli albergatori di Confesercenti con Federalberghi, volete una riduzione dell'IVA di fatto? Ma guardi, la riduzione dell'IVA è chiara, è benvenuta, tra l'altro non è casuale perché tutta ha una sua logica, cioè l'IVA agevolata che è stata scelta da altri paesi non è stata scelta l'Italia a suo tempo perché si è deciso di privilegiare altri settori, quindi diciamo che abbiamo un problema anche a livello di coerenza di politiche comunitarie. Comunque l'IVA sicuramente va ridotta per essere più allineate quelle che sono le nostre principali concorrenti. Il problema però, e qui ritorno alla sua, chiamiamola così, benevola provocazione, è che noi dobbiamo aumentare la stagionalità in questo paese, perché il vero differenziale di costi rispetto ad altri paesi è dovuto in parte, è vero, all'IVA, in parte al fatto che non abbiamo nessun tipo di aiuto dal punto di vista delle istituzioni, ma anche dovuto al fatto che si vivono delle stagioni estremamente corte in un paese che non ha nessun motivo strutturale per viverle. E questo è di nuovo ritorno a un discorso di collegamento con le infrastrutture, piani di sviluppo, di incentivazione che devono favorire un turismo su 12 mesi all'anno, cosa che il nostro paese si può tranquillamente permettere, perché non sfugge a nessuno il fatto che se noi ripartiamo i nostri costi su un'attività che funziona solo 4 mesi all'anno, è chiaro che il differenziale di prezzo alla fine verso il consumatore è molto penalizzante nei confronti di paesi, non sto parlando di paesi esotici, sto parlando della Spagna per esempio, della Francia, che vivono tranquillamente in molte destinazioni delle stagionalità più lunghe delle nostre, e questo perché vi è un discorso integrato di infrastrutture, di turismo e di altri settori produttivi del paese, dalla sanità allo sport, alla cultura. Ecco, nel nostro paese ognuno vive per conto suo e quindi ognuno poi persegue le sue logiche un po' di basso profilo, diciamo. Allora, la cosa più importante che ho capito in questo approfondimento sul turismo è che la crisi, come vediamo in altri settori produttivi, l'industria, la meccanica, così forte non c'è. C'è una contrazione, spero che non sia, e me lo auguro veramente, il proseguimento di un piano inclinato che ha preso il turismo in Italia da un bel po' di anni e che ci vede appunto perdere lentamente posizioni. Spero che sia invece l'effetto di una tenuta della nostra offerta. Invito veramente non solo lei ma tutti gli associati a fare molta attenzione, a vedere quella che è la qualità, a capire che non si può pensare che i turisti vengano in Italia o restino in Italia solo perché è il bel paese. E detto questo, auguro sia alla dottoressa Valeria Minghetti, ricercatrice del CISIT, sia al presidente del Federturismo Confindustria Daniel John Winteler buon Natale e a questo punto anche buon anno. Buon Natale anche a lei, ai vostri ascoltatori, e speriamo appunto che l'anno nuovo ci porti un po' più di integrazione. Sicuramente a parte nostra siamo pronti a svolgere il nostro mandato in coerenza con quanto abbiamo fatto in questi ultimi mesi anche. Bene, buon Natale. Grazie, buon Natale a tutti. Di nuovo con Focus Economia in questa puntata particolare del 24 dicembre. E allora, in un periodo in cui le buone notizie, per essere eufemistici, mancano all'appello, abbiamo accolto con favore la vendemmia record, il ritorno al primato italiano dopo 10 anni sulla Francia quanto a produzione. Siamo quindi tornati ad essere il primo produttore al mondo, tra l'altro nel 2007 l'export è aumentato dell'8% e ha toccato i 3,5 miliardi di euro, 40% in America, 50% in Europa. Noi siamo i secondi esportatori al mondo dopo la Francia, più 8% quest'anno anche la produzione. E iniziamo, la qualità dovrebbe essere tra l'altro molto buona, la produzione più forte si è avuta in Sicilia con un più 50% sul 2007. In America qualche difficoltà c'è stata nei primi 6 mesi dell'anno, un meno 3,5% dopo che l'anno scorso eravamo diventati il primo esportatore americano superando la Francia. E allora sentiamo come sta andando il settore del vino, iniziando questa carrellata di ospiti con l'amministratore delegato del gruppo Italiano Vini, uno dei principali, uno dei primi due gruppi in Italia o case vinicole in Italia, 70 milioni di bottiglie all'anno vendute, di cui 70% all'export, 300 milioni di euro di fatturato. Emilio Pedron è l'amministratore delegato, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Allora, come sta andando il comparto, il settore, visto che sarà difficile che proprio non risenta di questa crisi? Dopo del Vinitaly le cose sono cominciate ad andare un pochino meno bene, con rallentamento importante di consumo sul mercato interno e qualche difficoltà all'esportazione, perché la crisi economica non è solo italiana, locale, generale, mondiale, ma poi risentiamo in maniera forte di una competizione ormai globale, vino che si produce in tutto il mondo, in tutti i paesi del mondo, superiore alla domanda, e risentiamo anche di quegli sbalzi quasi sempre negativi di valute nei paesi in cui esportiamo, quindi il dollaro debole, la sterlina debolissima, quindi questo ci mette in difficoltà nei paesi fuori euro. Mi pare che gli ultimi dati anche di esportazione agli Stati Uniti sono negativi, attorno al 5-6% in quantità, e questo insomma fa aprire anche nel nostro comparto vitivinicolo qualche preoccupazione per il 2009. Allora, voi avete tra l'altro presentato qualche giorno fa l'acquisizione del marchio Bolla, proprio l'avete comprato da un gruppo statunitense. La cosa è particolarmente interessante perché comunque in questo periodo qualche occasione di shopping a prezzi forse più bassi in giro c'è, ma le chiedo le strategie secondo lei da attuare, perché non si può fare un 2009 semplicemente subendo la contrazione o la crisi economica. Voi avete in mente di lavorare più sul prezzo, quindi rapporto prezzo-qualità, sulla distribuzione, sulla fascia alta, magari immaginando che la fascia più alta sarà meno colpita? Noi da anni stiamo lavorando molto su un controllo maggiore della distribuzione anche sui paesi esteri. Abbiamo strutture nostre, abbiamo persone nostre in tutti i mercati che conoscono il mercato e incidono sul nostro sistema distributivo in maniera forte. La seconda cosa, crediamo che l'unica possibilità di avere del valore aggiunto in un sistema competitivo evoluto sia la marca, e Bolla è una marca, per cui l'importanza di questa acquisizione in un momento quasi controcorrente, in un momento non favorevole, segna questa nostra intenzione di puntare decisamente alla marca, perché la sola denominazione o il solo vitigno dovrà vedersela sempre di più con i prezzi in concorrenza e quindi non dare possibilità di margini possibili. Il mercato è sicuramente riflessivo, però non è riflessivo nel senso che compra solo vini a basso prezzo, compra un po' meno di tutto. Secondo noi c'è lo spazio anche per il vino di qualità, per le marche e per il vino che costa un po' di più. E quindi insomma un insieme, un mix di elementi, di iniziative. Un'ultima domanda, dottor Pedron, quale mercato secondo voi, abbiamo capito che la Gran Bretagna con la sterlina ai minimi storici non darà una grande mano, dentro l'Europa vedremo, l'America sicuramente anche lì le difficoltà ci sono. Da quale area geografica vi attendete, non dico un boom, ma almeno una tenuta? In questo momento ci sono due paesi che tengono, e la Germania e il mercato canadese. La Germania, che secondo noi risente meno della crisi, ma soprattutto è indirizzata a prodotti di maggiore qualità. Tra l'altro il mercato canadese, che va ancora bene. E poi ci sono i nuovi mercati, soprattutto l'est Europa e un pochino l'est asiatico, che comincia a muoversi. E quindi non abbiamo nessun tipo di aspettative di boom o di esplosione di consumi, ma possibilità di tenuta. L'altra cosa su cui noi contiamo da azienda più grande e più strutturata è quella di racimolare quote ai competitori. Nel ringraziarla, e chiaramente in bocca al lupo come facciamo a tutti gli imprenditori, anche all'amministratore delegato del gruppo italiano Vini, Emilio Pedron, nel ringraziarla salutiamo nel frattempo anche un altro imprenditore che fa vino ma fa anche olio e caffè, e mi riferisco a Giancarlo Aneri, rinomati i suoi prosecchi, l'Amarone e altri vini, usati spesso in occasioni istituzionali, l'insediamento del Presidente della Repubblica Ciampi e Napolitano, la firma della Costituzione Europea a Roma. Insomma, cerchiamo di capire, da un grande gruppo come quello che abbiamo appena ascoltato dalle parole di Emilio Pedron, come invece si muova un produttore sicuramente più piccolo e più limitato quanto a numero di bottiglie fatturato. Grazie quindi e buonasera anche a Giancarlo Aneri. Buonasera, molto lieto. Allora, come state affrontando questa crisi che inesorabilmente andrà a toccare anche il consumo di vino? La sensazione che lei sta ricevendo qual è? Io lavoro nel mondo della nicchia, si può dire che conosco tutti i miei clienti in giro per il mondo, e la sensazione che ho io è questa, di un timore generale per quello che è l'economia, e la realtà la conosciamo tutti, ma nello stesso tempo anche della voglia di avere più attenzione per la scelta di un prodotto. Allora io, come Aneri, frequento di più i ristoranti e gli alberghi perché voglio portare anche una ventata di ottimismo, perché non è che il mondo si fermi completamente. Secondo me, una volta uno poteva telefonare e mandare le lettere, adesso è meglio andare, darsi da fare, perché il mercato è più difficile, è più selettivo, ma se uno si dà da fare troverà anche poi dei riscontri positivi a livello economico. Come sta cercando a questo punto di combattere la crisi? Per esempio, il tema del prezzo non è tutto nel vino di qualità, ma è sicuramente un tema importante. Sì, è importante. Difatti, io avendo una gamma di prodotti che parte dal Prosecco, che è un vino che può essere consumato dal 90% delle persone, all'Amarone, che invece è un prodotto di elite con un costo molto più importante, cerco di allargare il mio raggio d'azione, perché sono convinto che alla fine il consumo del mio singolo cliente può essere anche inferiore a quello che c'era prima. Cioè io sto cercando nuovi sviluppi e sto cercando nuovi mercati, tanto è vero che sono tornato dagli Stati Uniti e ho avuto l'onore che il primo brindisi fatto dal presidente Barack Obama l'ha fatto con il mio Prosecco, penso che mi possa aiutare in quel mercato. Però sono stato in Russia, dove io esporto pochissimo, e ho cercato di fare dei progetti di nuovi ristoranti da toccare. In questo momento è più facile che uno sia interessato al Prosecco piuttosto che a un altro grande vino, perciò cerco di dare il prodotto giusto con il mercato di oggi, che è un mercato che ha grande attenzione per quello che è il rapporto qualità-prezzo. Beh, insomma, complimenti per il brindisi di Obama. Immagino soprattutto, oltre che augurarmi, che una mano gliela darà. Lei non ha mai pensato di, perlomeno sul fronte estero, unirsi, cioè avere una capacità anche di fare rete, di fare sistema? mi piacerebbe però un rapporto così personalizzato con i miei clienti che non posso delegare a un altro gruppo, a un'altra organizzazione commerciale. Cioè, non faccio testo per le dimensioni del mio business, ma faccio per conto mio testo o posso essere un punto di riferimento per la qualità dei miei clienti, che può magari qualche mio cliente può, lanciando il mio prosecco, aprire spazi anche per altri prosecchi. Cioè io vado a cercare nelle città dove vado a creare il mio business sempre il cliente di riferimento. In che senso? Il miglior ristorante. Prima vado dal migliore, dopo cerco di andare dal numero 2, dopo dal numero 3. Il business per quei 3 ristoranti, quello che faccio io è piccolo, ma magari è un esempio positivo per quello che ne può fare 50 ristoranti. E la rete commerciale a questo punto diventa fondamentale però per lei? Sì, la rete commerciale secondo me, parliamo dei grandi e dei piccoli, deve fare, chi dirige le reti commerciali deve fare attenzione alla professionalità di queste persone. Cioè oggi non si vende più perché c'è la voglia di comprare tutto, si compra quello che si sente il bisogno di avere. Allora se tu hai una rete commerciale di professionisti, questi sanno anche consigliarti sul prodotto che può andare bene per te. C'è un assortimento grandissimo di prodotti, ma oggi non si può insistere sui prodotti che poi restano in cantina. Cioè i ristoranti, sai dove, cosa ho trovato io di brutto in questi ultimi mesi? Che i ristoranti hanno le cantine piene, con un capitale importante, e la prima cosa che vogliono è quella di far uscire del prodotto dalla cantina piuttosto che comprare da te. Allora tu gli devi dare un prodotto che loro in quel momento sentono bisogno di averlo in cantina o di averlo nella carta di vini. Beh, in bocca al lupo anche a lei, comunque, quindi a Giancarlo. Io le dico una cosa però, noi italiani abbiamo una fortuna, non molliamo. No. E se lo ricordi, soffriranno di più i francesi, non voglio offenderli, che gli italiani, perché gli italiani si sanno adattare. Sì, già nel passato i francesi hanno sofferto più di noi, quanto a vino, ci mancherebbe. Grazie quindi a Giancarlo Neri, imprenditore appunto... presente, non sapevo, ma a questo punto anche fornitore di Barack Obama del prosecco, che speriamo che abbia apprezzato. È una bella soddisfazione per l'Italia più che per un singolo imprenditore. Grazie a lei. Buona serata, grazie a lei. E allora, ultima parte di Focus Economia, in questa puntata appunto da vigilia natalizia, chiudiamo il viaggio nel settore del vino con un'iniziativa che, proprio vista le difficoltà che anche questo settore attraverserà e in parte sta già attraversando, come ci ricordavano sia il numero uno del gruppo italiano vini sia l'imprenditore Aneri, dicevo, chiudiamo con un'iniziativa che accogliamo con favore, perché spesso abbiamo detto che il vino italiano, come altri settori di impresa di questo paese, soffre di un eccesso di parcellizzazione, di dimensioni troppo piccole, produttori che non fanno massa critica, che hanno difficoltà a mettersi assieme, hanno difficoltà poi a reggere la concorrenza, a diminuire i costi fissi. Ebbene, la difficoltà complessiva a fare sistema. Ecco, dicevo, perché salutiamo con piacere un'iniziativa presa da 18 grandi marchi produttori di vino, tra i maggiori del nostro paese, che si sono uniti soprattutto per quello che riguarda i mercati esteri, anzi direi esclusivamente per i mercati esteri, nell'Istituto Grandi Marchi. Abbiamo in collegamento il presidente, che è Piero Antinori, che è chiaramente proprietario anche della Marchesi Antinori. Presidente, buonasera. Buonasera, come sta? Bene, grazie. Allora, sicuramente state meglio voi di noi, diciamo, perché almeno il vino ha anche altri effetti. A parte gli scherzi, voi riunite, le cito tutte così non facciamo distinzioni, marchi che, per chi ama il vino, sono insomma il top della produzione italiana il top della produzione italiana: Gaia, Biondi Santi, Chiarlo, Folonari, Pio Cesare, Tenuta San Guido, Ca del Bosco, Mani Ronchi, Carpene Malvolti, Lungarotti, Masi, Mastro Bernardino, La Gheder, Rivera, Yerman, Donna Fugata, i Marchesi Antinori appunto, e Tasca dal Merita, da nord a sud, dal Veneto alla Sicilia, dal Piemonte anche alla Campania, i 18 tra i marchi più conosciuti. Tra l'altro questi marchi sono anche concorrenti tra di loro, penso a Donna Fugata con Tasca d'Almerita, ma non solo, penso a molti toscani che ho citato. Come avete fatto a mettere assieme dei produttori che si fanno la guerra sui mercati e che tendenzialmente vengono da un paese in cui non è che lo spirito di sistema sia simile a quello francese? Mi lasci dire che questo è un bel progetto, anche per questo motivo, perché è vero che siamo tutti concorrenti, però è anche vero che almeno nell'ambito di questo gruppo c'è un rispetto reciproco, c'è una grande stima l'uno dell'altro, molto spesso c'è anche una vera e propria amicizia, e quindi abbiamo deciso di superare questi individualismi che caratterizzano un po' il nostro popolo italiano da sempre, per cercare di fare gruppo, di fare sistema, perché oggi, soprattutto in vista di tempi non facilissimi, vista la situazione economica mondiale, credo che poter fare insieme una promozione per il vino italiano di qualità nel mondo, nei principali mercati, sia un fatto estremamente positivo che ci consente anche di guardare al futuro non con eccessiva preoccupazione. Tra l'altro i marchi che ho ricordato hanno fatturato l'anno scorso più di mezzo miliardo di euro, 550 milioni, con un 60% di tutto il prodotto esportato, una media più alta della media complessiva delle aziende vitivinicole. Avete fatto un più 10% come 18 appunto marchi dei grandi marchi nel 2008. Mezzo miliardo non è tantissimo se consideriamo che il giro d'affari complessivo è di 12 miliardi in Italia, però il 60% dell'esportato è una quota notevolissima. I mercati a cui guardate con più attenzione, perché appunto tutti i nomi che ho fatto sono nomi presenti delle volte quasi più nei ristoranti all'estero che non in quelli italiani. Sono tutti marchi molto noti anche sul mercato nazionale e domestico, però in questo momento puntiamo ovviamente molto della nostra attenzione e anche delle nostre risorse all'esportazione, soprattutto in certi mercati emergenti. Infatti la nostra azione è stata negli ultimi 4-5 anni di vita di questo istituto, è stata concentrata soprattutto nei mercati emergenti dell'Asia, con particolare riguardo al Giappone, alla Cina, alla Corea del Sud, Hong Kong, Singapore e l'India, un mercato che potenzialmente potrebbe essere molto importante, e quindi abbiamo fatto diverse manifestazioni anche in India. Poi ci siamo rivolti anche alla Russia, con un mercato che ormai da qualche anno sta dimostrandosi molto vivace nei confronti dei nostri prodotti, soprattutto quelli di qualità, soprattutto i vini italiani. E quindi noi crediamo con queste azioni di fare naturalmente un'azione a favore delle nostre aziende, però crediamo anche di fare un'azione che poi va a avere una valenza positiva per tutto il vino italiano di qualità. E questo è vero, perché l'effetto traino c'è nella moda, ma c'è anche nel vino e in tanti altri settori, effetto traino, effetto apripista. Una domanda ancora sulle aree geografiche, poi vengo alle iniziative invece che condividete. Il Messico, voi a ottobre avete portato a Miami tutti le 18 aziende e avete avuto un rapporto importante col Messico, perché lei ricordava l'Asia, e tra l'altro in Corea per la prima volta il vino importato ha superato i 100 milioni di euro. Ma il Messico è un'economia su cui, se ho ben capito, voi avete una certa attenzione e interesse? Guardi, il Messico è uno dei mercati emergenti che si sta aprendo al vino. Fra l'altro in Messico c'è anche una produzione locale che tutto sommato aiuta. Quindi il Messico, nonostante che la Spagna, per ragioni storiche, ha un legame un po' particolare con il Messico, però anche l'Italia sta iniziando a porre le basi per un lavoro futuro, e quindi noi guardiamo anche al Messico con particolare favore. Fra l'altro in Sud America poi abbiamo il Brasile, che è un altro mercato interessante che potrebbe domani rivestire una certa priorità anche nel panorama generico dei mercati interessanti. Marchese Antinori, veniamo al punto iniziale. Abbiamo detto un modello di business a maggior ragione importante quando la situazione è critica anche per i consumi di vino, non è critica solo per il resto. Delle volte dalle crisi arriva anche quella spinta, quella paura, quel fuoco, diciamo, che permette di fare dei cambiamenti, dei salti di sistema che altrimenti arriverebbero in maniera troppo lenta. Non sono sempre solo negative le crisi. Abbiamo detto per anni che uno degli elementi di maggiore debolezza del mondo del vino italiano era questa struttura piccola, piccolissima, 800.000 produttori per 700.000 ettari, molti conferiscono le uve, ma i piccoli non vogliono consorziarsi in maniera strutturata, il consorzio deve solo dare un controllo sulla qualità del vino, ma non fare altro. Ecco, voi che siete pure così in concorrenza come fascia anche di prodotto, che cosa fate assieme? Cioè l'istituto si accolla delle spese di rappresentanza, delle spese di pubblicità, di promozione, in modo che non gravino sul singolo produttore parcellizzando poi quella che è l'offerta? Esattamente, il nostro tessuto produttivo italiano tradizionalmente, storicamente, è stato sempre caratterizzato da questa grande parcellizzazione che non ha consentito di combattere armi pari anche con produttori del nuovo mondo, mi riferisco al Nord America, al Sud America, all'Australia, dove invece ci sono delle realtà molto più concentrate e quindi anche con possibilità di fare politiche molto più aggressive di quanto siano state fatte da noi e comunque dal vecchio mondo, quello che noi chiamiamo il vecchio mondo, cioè Italia, Francia, Spagna, che più o meno sono nella stessa situazione. Questa nostra iniziativa, che comunque è nata in tempi non sospetti, perché quando è nata non c'era il momento di crisi come c'è ora, però ora viene bene perché è proprio ora che invece c'è bisogno di una struttura associativa che possa con molta più aggressività, con molti più mezzi di quelli che potrebbe utilizzare un'azienda singolarmente, può fare delle azioni di promozione, azioni di formazione, tutte azioni che probabilmente sarebbe stato difficile di fare singolarmente, che invece costoso, come gruppo siamo riusciti a fare. Fra l'altro le dirò che in passato per 3 anni abbiamo avuto anche un finanziamento dalla Unione Europea rivolto proprio a promozioni nei paesi extracomunitari e nei paesi terzi, e quest'anno abbiamo di nuovo ottenuto un altro finanziamento per i prossimi 3 anni, sempre con questa finalità di fare azioni comuni nei paesi terzi, insomma. Per cui in Italia ognuno concorre, se ho ben capito, liberamente, poi quando c'è da andare in Asia, in Centro America, Miami e in altre piazze, vi unite, posso sintetizzarla così. Ecco, ma siccome la cosa mi piace moltissimo, perché ogni tanto qualcosa cambia anche in Italia e dovrebbe essere come modello anche per tanti altri settori di impresa, dalla meccanica al tessile, perché non ce la possiamo fare solo individualmente presi, anche perché siamo piccoli. Pensate che i 3 primi gruppi italiani, la GIV, Caviro e Cavit, fatturano complessivamente poco più di 700 milioni di euro. Il primo gruppo australiano fa 4 miliardi, per cui questo per dare il senso delle proporzioni. Ma veramente, tra, non so, Herman e la Geder, tra Donna Fugata e Tasca del Merita, tra Biondi Santi, Folonari e lei, non vi è mai stata tensione quando andate in Asia piuttosto che in Centro America a proporre di comprare questi vini? Magari uno preferisce comprare il suo concorrente, ma voi siete tutti contenti. Devo dire che si è creato uno spirito di vera collaborazione, spirito di vino, di condivisione, di condivisione anche degli obiettivi, perché le aziende che fanno parte di questo gruppo non sono tutte omogenee da un punto di vista della dimensione. Quello che ci unisce è proprio l'obiettivo, la missione, che è quella di valorizzare i nostri prodotti di qualità, creare una reputazione, un prestigio per i nostri vini e quindi creare proprio una base solida per costruire qualche cosa di interessante per il futuro. E quindi fare anche massa critica quando servono anche le masse, oltre che il prestigio e la qualità. Perché esattamente, sennò, perché certe cose singolarmente sarebbe impossibile farle, di poterle realizzare. Soprattutto con mercati così grandi come il Messico. In Messico ci sono 22 milioni di abitanti che sono classe media, consumatori di vino. E non parliamo poi di quello che sarà la Cina e l'India nei prossimi anni. Ma vede, credo che, insomma, si calcola che nei prossimi 30 anni ci saranno 1 miliardo di persone in più di quelle che ci sono attualmente, che avranno una possibilità di spendere per aumentare e migliorare il loro stile di vita, la loro qualità della vita, e quindi anche probabilmente comprare e abituarsi a bere il vino. Quindi noi cerchiamo oggi di creare le premesse e le basi per poter avvicinare nei prossimi 30 anni questo miliardo di persone in più. Sì, tutte non riusciremo a darglielo il vino, se no non ce l'abbiamo più qua a casa nostra. Però spirito di vino, dicevo nel doppio senso, perché è difficile vedere aziende italiane unirsi lasciando da parte appunto il paese dei Guelfi, dei Ghibellini, dei Mille Campanili. Grazie a Piero Antinori, presidente dell'Istituto Grandi Marchi. Grazie a lei, buonasera. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, Gaia Romani per l'assistenza in redazione. Un augurio a voi di un buon Natale e quindi vigilia e domani le festività. Focus Economia di Sebastiano Barisoni.